Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. E altro che se cominciamo, ragazzi. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. E la telenovela dell'estate che si chiude finalmente. Fatemelo dire che non ne potevamo più. Tutti quanti, anche gli ascoltatori, i lettori, i telespettatori, Donnarumma resta al Milan, lo coprono d'oro. 6 milioni l'anno per 5 anni, appiccicato il cartellino del prezzo, 50 milioni di clausola recessoria se Milan andrà in Champions, non andrà in Champions, 100 milioni se andrà in Champions League. È stato ripreso anche il fratello d'arte Antonio, ripescato dai meandri del calcio greco, 26 anni, 1 milione l'anno per 5 anni. Terzo giocatore più pagato d'Italia dopo Higuaín e Dybala, terzo portiere più pagato d'Europa dopo Neuer, il mostro sacro, e De Gea ben più di Buffon. Insomma, chi ha vinto in questa partita? Lui, certamente, Mino Raiola, il Milan. Io lo voglio chiedere a tutti i nostri radioascoltatori, 800240024, ma lo voglio chiedere a Franco Ordine, nostro amico, e a Tancredi Palmieri di Bein Sports TV, perché hanno, mi sa che hanno idee diverse. Chi ha vinto, Ciccio, quella partita Donnarumma? Ma guarda, intanto mi pare che l'abbia vinta la famiglia per, credo, due motivi molto evidenti e quasi clamorosi. Primo, perché è riuscito a riportare in Italia anche il fratello che seguirà Gigio a Milanello e che quindi, diciamo, gli garantisce una copertura affettiva. Secondo, perché ha strappato obiettivamente dei contratti super che non immaginavano. E terzo, aspetto questo secondo me non da sottovalutare, perché ha preso in mano la regia dell'operazione della trattativa, mettendo praticamente in un angolo Raiola. Chi ha perso, credo se non ci siano dubbi a questo punto, cioè? Ha perso nettamente Mino Raiola, perché il piano di Raiola era evidente: prendere il giocatore, magari anche a zero, e portarlo in dono come Gesù Bambino la notte di Natale, portarlo a Madrid o a Parigi a seconda della offerta più conveniente. Adesso questa circolano anche le voci più fantasiose, già trapela di un avrebbe rifiutato un'offerta di 13 milioni più 3 ville più 3 auto di lusso del Paris Saint-Germain. È tutto quello che si potrà raccontare, poi diventeranno anche leggende metropolitane. Sì. Però la cosa fondamentale è un'altra, e cioè voi non so se ve lo ricordate, io invece ho buona memoria e ho appuntato tutto. Nel famoso incontro a tre tra Raiola, Gigio Donnarumma e Mirabelli a Monte Carlo, sì, nella proposta di Mirabelli c'era non soltanto lo stipendio di 5 milioni netti l'anno, che vuol dire 5, che sì, vuol dire qualcosa come 5,5 al mese, ma vuol dire, c'era anche la proposta di far tornare il fratello come terzo portiere. Sì, che poi di fratelli illustri abbiamo le gli esempi. Carlo, in quella circostanza, Carlo, fatti raccontare da Donnarumma, se ti capita, Raiola osò dire che quella era una provocazione. Sì. Quindi questo secondo non lo so se Mino Raiola ha perso la partita, viste le commissioni che non si sanno, si conoscono. Scusami, e girano. Caro, no, mi dispiace, non c'è paragone tra la commissione a un rinnovo contrattuale e la commissione legata a un trasferimento a 0 euro. Non c'è paragone. Tancredi? Guarda, Raiola viene spesso accusato di non saper parlare in italiano sufficientemente, ma io credo che e abbia attuato il più italiano dei contropiedi. Cioè, se mettiamo l'orologio a 2 settimane fa, effettivamente Raiola era stato messo all'angolo, comunque sia la posizione era stata all'angolo. Però la dote di Raiola è di non essere tetragono, sa cambiare per ottenere il meglio per sé. Quindi secondo me è salito in contropiede, resosi conto della bomba che gli era scoppiata in mano, che era scoppiata in faccia alla famiglia Donnarumma, della paura che si era messa addosso possibilmente Gigio Donnarumma per la reazione veemente che c'era stata, allora ha volto, ha capito come cambiare e volgere a proprio favore questa situazione, mettendo le clausole che voleva lui. Mi posso immaginare quanto guferà il Milan per non entrare in Champions, la prossima estate, non perché credo. 50 milioni voglio dire maggiore commissione per lui. Concludo. Scusa un attimo. Non è assolutamente vero. E cioè, cosa le non è vero, clausole proposte, fammi finire, fammi articolare, le clausole proposte da Raiola nel famoso incontro erano 5 milioni in caso di non Champions e 10 milioni in caso di Champions. No, però un attimo, quelle erano state le clausole provocazione. Quelle sono state le clausole provocazione rilanciate a Raiola una volta che si è sentito offeso dall'atteggiamento di Mirabelli e allora è andato alla guerra come alla guerra a provocare in quella maniera. Ma inizialmente Raiola voleva una clausola, il Milan non voleva nessuna clausola, stiamo parlando inizialmente. Poi voglio dire, è vero che la volontà, ripeto, se torniamo a 2 settimane fa, la volontà di Raiola era: io ho lavorato per portare Donnarumma al Real Madrid possibilmente, per poi se Germain non lo so, al Real Madrid possibilmente, lo dovrete dare a un 30 milioni perché è l'ultimo anno di contratto, tutto quello che cresce, come disse Fassone, sono soldi che perdiamo noi e si mette in tasca Raiola. Certo, vero, aspetta però. Io voglio questo è il quadro precedente. Si è disegnato però un altro quadro che non possiamo dire sia sfavorevole ad alcuno, se non al Milan. E anche nel futuro, io Carlo, dico, attenzione, perché non è soltanto il fratello che supporti oggi. Ma sì, io voglio credere, cioè se io guardo il modus operandi di Raiola nei suoi anni, diciamo gli ultimi 10-15 procuratori di alto livello, sempre un affare per una squadra è sempre stato sinonimo di altri affari per Raiola con quella squadra. Certo, dove questo è chiaro, poi ci sono anche le sponsorizzazioni, eccetera. Tacredi, ti ringrazio. Voglio chiudere con Franco Ordine, perché la maggior parte dei nostri ascoltatori che leggo su, che scrivono, perché tra poco parleranno, ma per il momento scrivono, 800240024, non sono d'accordo con te. Spiega perché Raiola ha perso, Franco. Sono molto contento che non siano d'accordo con te. Io sono contento. Raiola ha fatto prendere 6 milioni all'anno ad un 18enne, avrebbe perso? Sì, scrive uno. Ma scusate, ma di che cosa state parlando? Ma l'offerta fatta senza nessuna trattativa a 15 giorni fa era di 5 milioni, quindi cos'è che ha fatto in più? Il problema vero, poi dopo dovremo conoscere con esattezza le cifre ufficiali, il problema vero è uno e uno soltanto, e cioè che dopo la famosa cancellazione del post di Instagram col quale Gigio Donnarumma dichiarava amore nei confronti del Milan, che Raiola aveva fatto rimuovere tirando fuori la barzelletta dell'account hackerato, la famiglia ha rotto gli indugi ed è intervenuta in prima persona e Raiola è stato messo da parte 2 giorni fa, 3 giorni fa. Sì, però non mi sembra un così Raiola, cattivo Carlo, contratto, Ciccio, 5 anni, tra 5 anni, Donnarumma a 21 si ricomincia a trattare. Ma era questa l'offerta di Mirabelli! 3 giorni fa Raiola è andato a Napoli per tentare un disperato tentativo a casa di Donnarumma ed è stato respinto. Mettetevelo, i fatti sono come dei sassi duri. Attenzione a non farveli rimbalzare sulla testa, perché poi vi fanno male. È sempre meraviglioso, Francordia. Grazie, Ciccio. Senti, alla prossima. Tanto ci sentiamo presto. Questa vicenda qua. Ciao, è ancora fresca. Allora, andiamo con il traffico. Poi aspetto gli ascoltatori che immagino oggi avranno qualcosa da dire. 800 24 00 24 numero verde. Misha Djorkaeff, fratello di minore di Yuri, preso dall'Inter. Evans Kondogbia, questa è vicenda più fresca. Fratello di chi sapete. Juan Alberto Mauri, fratello maggiore di José Mauri, portato in Italia dal Milan. Di Gao, famoso fratello di Kakà, che poi finì a Rimi e poi non so che fa, cosa faccia adesso. Probabilmente il ricco. E Max Vieri? Vogliamo parlare di Max Vieri, fratello di Bovo, preso al Torino. Allora, traffico, poi torniamo. Donnarumma. Sembra il nome di una passata di pomodoro. E ci mette gli spaghetti a Donnarumma. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, non convince la tesi di Franco Cicciordine, secondo cui Mino Raiola avrebbe perso la partita Donnarumma. Io lo chiedo a Carlo Pallavicino, che oltre ad essere un amico di antica data, è un procuratore, è direttore di calciomercato.com, è più di così che si può dire. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Allora, mi riesce difficile condividere il pensiero di Cicciordine con tutto il bene che gli voglio, secondo cui Raiola avrebbe perso la partita Donnarumma. Allora, terzo giocatore più pagato d'Italia dopo Higuain e Dybala, terzo portiere più pagato d'Europa, 6 milioni per 5 anni, a 18 anni, gli hanno preso pure fratello che gliene regalano uno all'anno ed era perso nei meandri del calcio greco. Mi viene difficile capire perché avrebbero perso Donnarumma e il suo agente. Sì, assolutamente, direi che chi ha stravinto è il fratello di Donnarumma. So, dimmi la tua, da procuratore. Il fratello di Donnarumma sicuramente è per colui che ha stravinto. Se. Però, ora, a parte le battute, è ovvio che questa strategia alla fine ha pagato e quello che ci dicevamo anche poco tempo fa quando ci siamo sentiti al telefono, cioè che non aveva senso logico, sportivo, razionale, anche finanziario, perché secondo me un ragazzo ancora così giovane prende, va al Paris Saint Germain, prende tutti quei soldi, ma ancora ha da consolidare certe cose, secondo me era anche quella una scelta che finanziariamente in un futuro poteva anche ripercuotersi negativamente. Per me è stato, io non voglio parlare di capolavori, perché poi dopo alla fine sicuramente qualcosa sarà costato anche a Raiola in termini di immagine, di fatiche, di stress, perché sono state settimane difficili, però effettivamente chiusa lì la vicenda ha vinto sotto tutti i punti di vista, anche sotto quello direi finanziario, perché sicuramente, ribadisco, questo è un passaggio molto molto grande, ma in una logica, un passaggio ulteriore non lo avrebbe avuto. Sì, ma hanno messo anche il cartellino del prezzo, 50 milioni di clausola rescissoria se il Milan non va in Champions, 100 milioni se va in Champions. Sì, quindi direi che proprio è più che garantito. Che vuoi più? Cosa vuoi più? Ma poi ti ripeto, contratto di 5 anni a tutti sti soldi. E fra un paio d'anni, tre anni, quando Donnarumma ne avrà 21, si ricomincerà a parlare di rinnovo del contratto e tutta sta storia ricomincerà. Quindi lì forse sarà il momento in cui effettivamente a tutti, Raiola, Donnarumma, Milan, che vediamo come sarà, potrebbe convenire lasciarlo andare via, potrebbe essere l'affarone. È chiaro che il Milan non poteva perderlo a costo zero questo giocatore, quindi aveva la corda al collo il Milan, esatto, e questa è stata probabilmente la cosa più difficile in cui è stato più bravo Raiola, cioè a tergiversare, a temporeggiare, sapendo che tanto la corda al collo ce l'aveva il Milan. Quello obiettivamente, parlando da procuratore, non è mai facile, con le pressioni mediatiche, vabbè che Raiola, come dice lui stesso, se ne frega, però con tutto quello che c'era intorno, col fatto stesso che Donnarumma comunque aveva a sua volta delle pressioni grosse, quindi devo dire, l'aver saputo temporeggiare, quella è la dote più importante che ha saputo sfoderare in questa trattativa. Senti, andiamo a finire la tua Firenze, perché io voglio capire che una valle cazzo di lacrime, succede. Allora cominciamo da il solito audio, perché tanto ormai viviamo circondati da sti affari, social network, audio, Twitter. Audio di Borja Valero mandato a un amico, bell'amico. Dirò la mia, anche andando peso su qualche persona che è veramente chi ha la colpa di che io possa andare via. Non so cos'altro dirti, solo che il giorno che possa farlo lo farò chiaro, dirò tutto quello che devo dire, anche se ancora non è al 100%, sono sincero, sicuramente andrò via perché mi hanno rotto le palle, perché non ce la posso fare più, mi hanno fatto piangere, mi hanno fatto non dormire per queste ultime due settimane, per me è una cosa molto molto difficile, molto dura, però il giorno che posso farlo lo spiegherò tutto per bene, se ce la posso fare. Allora, l'audio mi ha dato ad un amico. Ovviamente adesso ci racconteranno che è stato hackerato, che è intervenuta la NASA, che è successo qualche cosa. Questo audio è immediatamente diventato pubblico. L'associazione Calcio Fiorentina informa che alla luce delle dichiarazioni emerse da un messaggio vocale del proprio tesserato Borja Valero, diffuso da vari mezzi di comunicazione, tra cui anche Radio 24, ha trasmesso il tutto al proprio ufficio legale per ogni opportuno approfondimento. Allora c'è un problema immenso che io e nessuno a Firenze sa spiegarsi, ma anche fuori Firenze, perché la Fiorentina continua a fidarsi a Cognini, che è il personaggio che ha creato anche a livello di immagine e della valle solamente problemi, perché è indubbio che in questi anni colui che ha gestito la Fiorentina in prima persona, molto più anche di Andrea della Valle, è una persona che è arrivato quasi sempre alle vie legali o comunque a delle rotture traumatiche che sicuramente hanno poi alla fine anche snervato la città, che oggi come oggi non si sente più legata alla famiglia della Valle, e questo è un grave peccato, perché la famiglia della Valle comunque era una famiglia ed è una famiglia che farebbe bene al calcio. D'altra parte non sa scegliersi i propri collaboratori. Ha scelto un plenipotenziario che è colui il quale fa il bello e il cattivo tempo a Firenze, si chiama Mario Cognini, il quale purtroppo in questi anni ha continuamente gestito la situazione in una maniera tale per cui non ci fosse mai l'armonia giusta per portare a termine qualsiasi progetto. Questa è l'unica vera sacrosanta verità che si può raccontare su Firenze, e sì, stupisce che i della Valle, gente così avveduta e così attenta anche all'immagine, sì, che è stata vincente per loro, non abbiano mai capito Carlo questo. Però non possiamo dire che sia un'estate normale per Firenze, perché la Fiorentina è stata ufficialmente messa in vendita con un comunicato abbastanza demagogico, se mi permetti, dei della Valle. E adesso praticamente tutti i giocatori sono lì con la valigia in mano, e dimmi chi vuoi, da Kalinic a, ovviamente, Borja Valero a Bernardeschi, sono tutti lì con la valigia in mano. Mi sembra una Fiorentina sul punto di essere smontata. Ma guarda che negli ultimi anni è stato quasi sempre così. L'estate scorsa si finì con Paolo Sosa che sbagliò a non andarsene, quella prima ci fu la vicenda Montella, ancora prima ci fu la vicenda Prandelli, cioè qui ogni anno, ogni estate ci troviamo con delle problematiche ambientali legate alla mancanza di atteggiamenti condivisibili, comprensibili, chiari da parte di chi gestisce la Fiorentina, e io continuo a pensare che i della Valle, che se ne stanno lontani da Firenze, se fossero un po' più presenti, sicuramente tutte queste problematiche non le avrebbero create, perché non sarebbe nel loro interesse. Oggi la Fiorentina, te lo ribadisco, è una società appaltata ad una persona che purtroppo non riesce a fare calcio in una maniera, chiamiamola, ecosolidale. Ecosolidale, vabbè, se ti chiedo l'ultima cosa, ecosolidale, vabbè, te la lascio passare perché sei un amico. ho perso il filo. No, la cosa che volevo chiederti, allora, il binario Firenze-Torino, come sai, storicamente non funziona benissimo, No. Firenze-Torino bianconera, quella dovrebbe essere la destinazione di Bernardeschi. Che mi dici, Bernardeschi va alla Juventus o non va? Ma penso proprio che ci vada, e penso anche che l'ultimo si mette in moto la locomotiva. Sì, l'ultimo tassello di rivalità tra Firenze e Juventus, che però non potrà mai morire, però penso che in questo caso sia l'ultimo dei problemi, perché veramente ce ne sono talmente d'altre e di più importanti, che adesso se Bernardeschi va a vestire la maglia viola non ci saranno la maglia bianconera, non ci saranno le rivolte di Piazza Donatello degli anni 90 per pace. No, quelle sono irripetibili, ma insomma rimane il fatto che è una Fiorentina che sta perdendo i pezzi, e quelli per ricostruire il puzzle al povero Pioli, che è passato da un Inter che insomma abbiamo visto bene, a una Fiorentina che era una cosa, adesso sta diventando un'altra, Carletto. Ma lui mi ha detto che lui gli piacciono le sfide difficili, quindi allora siamo tutti tranquilli, tutti contenti, Pioli compreso. Grazie Carlo. Ciao a te. Ciao Carlo, buona vicino. Ciao. Allora, cosa succede adesso? C'è la borsa. Poi torniamo, spezzando un attimo il ritmo, con un grande ospite che non riguarda il calcio ma la pallacanestro. È il presidente federale Gianni Petrucci, che ci ha concesso una intervista da non perdere. E poi scatenatevi. 800 24 00 24, il numero verde. Tutti convocati. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, tra poco torneremo sull'argomento Donnarumma. So che state chiamando in tanti, vi ascolteremo, apriremo i telefoni, ma intanto abbiamo un grande ospite, come il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, che è in partenza per la montagna e non per vacanza. Buongiorno presidente. Buongiorno. Va ad accogliere la nazionale, no? Sì, vado a Domeggi adesso per l'Under 20, per salutarli, incontrare Buscaglia, sì. E quindi poi ci aspetta la prossima settimana il Consiglio federale, e poi da lì la presentazione della nazionale maschile di Messina, e poi partiamo tutti insieme per questa avventura. È un movimento che cresce, è un movimento in crescita, è un movimento in cui c'è fame di pallacanestro, ci sono nuovi talenti. Il 24 si riuniscono i big della nazionale Folgaria, lo ricordavamo. Caccia un Eurobasket che sta per cominciare, sarà l'ultima esperienza in azzurro per Ettore Messina. Siamo ancora scottati dalla delusione del Preolimpico l'anno scorso ed è inutile nascondercelo. Cosa ci aspettiamo da questo europeo? Ma ci aspettiamo un buon europeo, ovviamente, come anche le altre nazioni se l'aspetteranno. Noi ci abbiamo Ettore Messina, che tutti sanno che è bravo, anche se abbiamo fallito l'occasione preolimpica, però nello sport ci sta anche la sconfitta. Partiamo sapendo di avere una buona squadra, sulla carta sempre una buona squadra, poi si devono fare gli originali quando dicono che Petrucci aveva detto che sulla carta era la migliore formazione possibile. Lo ripeto, sulla carta, ma sulla carta non lo mettono, perché deve essere originale, fare gli originali e dire cose opposte a quello che dice la federazione. Ma sa chi lo dice? Lo dice sì. Tutti, lo dicono tutti quelli che non hanno idee di novità. Sì. Perché che sulla carta era la squadra più forte, lo era sulla carta, poi non l'ha dimostrato ovviamente. No, quindi... no, ma è chiaro, ma Presidente, ma è una generazione X di grandi talenti, due mancheranno a questo europeo, sono Gentile e Bargnani, che forse non avevamo mai avuto, sulla quale forse ci eravamo illusi troppo, che forse ritenevamo troppo forti, non lo so, però è una generazione X di grandi talenti che non avevamo mai avuto e che rischia di chiudersi senza successo. È paradossale. Ma sì, è così, però diciamo che ci sono anche dei cicli, io col calcio, col CONI, abbiamo avuto sempre cicli di grandi. Se voi pensate alla Serbia, quando l'ha presa Djordjevic era una nazionale serba allo sbando, uh-huh. E poi Djordjevic è arrivato secondo sia al mondiale che ai giochi olimpici, per cui questo è la vita dello sport e di tante federazioni. Il nostro è uno sport difficile, abbiamo solo due medaglie a disposizione, tante altre federazioni ce ne hanno 10-15, quindi i presidenti federali già sanno di stare a Rio, noi no, non possiamo saperlo. Adesso c'è la novità del 3-3, sì. Abbiamo una nazionale femminile che è quinta nel mondo e quindi stiamo lavorando, investiremo sul 3-3, che è una bella novità che il CIO ci ha concesso, ha concesso poi ovviamente a tutte le altre federazioni del mondo, per cui questa è una federazione che, come lei diceva, gli spettatori si sono sempre in grande aumento, un campionato interessante, per cui adesso aspettiamo questi europei che non qualificano a niente peraltro, però sono veramente una bella vetrina per il basket europeo, nazioni forti, abbiamo un girone difficile, però abbiamo tutte le carte in regola per fare bella figura, sperando che i giocatori arrivano tutti sani, sì. Come nell'ufficio di Messina. Sperando, uno non arriverà, è un caso molto discusso, scendiamo nel dettaglio, Gentile, quanto sarebbe importante per il movimento ritrovare questo ragazzo? Tantissimo, ma Gentile è una realtà che poi ha avuto un anno sfortunato, ma questo fa parte di tutti e di tutti. E sentivo che voi parlavate prima di Donnarumma. Donnarumma è un campione e all'europeo purtroppo 10 tiri 6 gol. Quindi vedete, il giornalista ha sempre ragione. Come ho sempre torto. Lo sport ha torto, perché vedi, non faccio polemica con la stampa, perché tanto uno ci rimette sempre, perché l'ultima parola ce l'ha la stampa, pure se uno replica, fai comunicati, poi oggi con Facebook entri dappertutto. No, non me ne parli, ormai la comunicazione si fa con i social network ed è una cosa che io cordialmente detesto. Io devo necessariamente seguirla, ma non i pettegolezzi, non il fatto che Petrucci va a vedere la partita, allora ci stanno i disoccupati di Facebook che scrivono: ah, che Iella, peccato, perché non se ne sta a casa, e la gente è contenta di scrivere questo, contento io per loro. Contenti loro, ma queste sono le realtà. Però ripeto, questa è una bella realtà, quella della pallacanestro. Abbiamo avuto uno sfortunatissimo campionato europeo femminile. La lingua continua a battere dove il dente duole. Sì, perché vede, io che sono sempre stato dentro la giacca e cravatta, questa volta non è ce l'ho uscito fatta. La giacca e cravatta. Non ce l'ho fatta, ho detto un po' di più di quello che avrebbe detto Petrucci in giacca e cravatta, che non avrebbe dormito sereno quell'arbitro, perché tutti l'hanno visto, hanno fatto il giro dell'Europa, sì. Non dico del mondo, quel tecnico intenzionale fischiato a 8 secondi dalla fine, che era un fallo normalissimo, l'hanno potuto vedere. Però che fai quando mi dicono ti devi far sentire? Cioè, che faccio? Scrivo una lettera, l'ho scritta, che succede? Niente, ovviamente. Per cui se noi rimproveriamo i presidenti che investono soldi, un comportamento corretto per essere corretti. Certo, c'è un limite a tutto. No, c'è un limite a tutto ed è stato un europeo, come diceva, sfortunato, in cui abbiamo mostrato un grande talento che è Zandrasini, che è tratto delle mie parti, ma questo non conta niente. Senta, Presidente, io continuo a fare il tifo ogni volta che parlo per il ritorno della storia in Serie A. Quest'anno abbiamo visto una società in finale scudetto, una società storica come la Reyer contro una società rookie, diciamo così, a questi livelli come Trento. È salita la vecchia Virtus, abbiamo quel campionato in cui ci sono piazze storiche, Trieste che è arrivata fino in fondo, Fortitudo Bologna, le conosce meglio di me, insomma, che hanno voglia di grande basket. Io sogno il ritorno, non so, sarò nostalgico, però sogno il ritorno di questi nomi al piano di sopra. Ma è logico. Quando ci inventammo il lodo Petrucci, che significava che nel calcio significava che nelle piazze in cui quello sport è amato non può sparire. E per questo sono poi nelle massime serie il Napoli, la Fiorentina, il Torino, che utilizzarono quel famoso lodo che impropriamente portò il mio nome. E la realtà è che la pallacanestro è uguale, ovviamente con dimensioni diverse da quelle del calcio, è chiaro. Però tu non devi far sparire lo sport in quelle città in cui quello sport è amato. Per cui le città che lei ha citato, ma c'è anche per esempio Reggio Calabria, ci sono anche altre realtà che hanno la possibilità oggi di lottare per un posto nella massima serie. Però quel buco della serratura è veramente stretto. No, ma adesso ovviamente ci saranno due promozioni, poi c'è questo progetto della Lega che adesso esamineremo, però già abbiamo fatto presente che ci sono, diciamo, degli obiettivi e difficoltà in alcuni punti, che però torneremo sull'argomento poi con la Lega di Serie A, tanto questo campionato partirà con le regole che ci sono. E poi noi siamo aperti a ogni discussione, però bisogna salvaguardare i diritti delle squadre che sono sotto, che ambiscono a venire in Serie A. Allora, io vorrei chiudere con lei con due nomi che sono di attualità. Uno è quello di Gallinari, che sta per firmare con i Clippers un contrattone, 65 milioni l'anno. Ma l'Italia del basket a livello individuale ha molte eccellenze, da Melli che si è affermato fuori dai confini, ma ovviamente ha avuto, in Italia stava pure bene, in Italia era pure un grande giocatore, ma attraversati i confini si è confermato, da Tome che è andato a vincere l'Eurolega. Come mai in nazionale non si riesce a trovare una squadra? La seconda domanda riguarda il futuro, dopo Messina. Ma non si riesce a trovare una squadra, ripeto, la partita è fatta di tanti episodi, di tanti spaccati. La Croazia ha meritato di andare all'ultima Olimpiade, però se quella palla che girava nel ferro andava dentro di Aradori, c'eravamo noi, per cui uno dice un fallimento, beh, sulla carta sì, un fallimento è stato. Però c'è pure il famoso gol di mano dell'Irlanda quando allenava Trapattoni. Sport è questo. Che andò, e quello fa parte delle regole del gioco, ci devi stare nello sport. Anch'io persi la pazienza quando all'Olimpiade ci negarono una medaglia alla ginnastica artistica, alle farfalle, che era una medaglia più pesante. Ripeto, e poi dopo Messina stiamo vedendo, ci stiamo guardando attorno. Abbiamo diversi nomi sul taccuino, adesso faccio quello che fanno le squadre di calcio. Sarò segreto, però l'idea ce l'abbiamo. Speriamo che siano idee giuste. Andiamo, adesso vediamo. Ancora non abbiamo concluso nulla, però, perché c'è ancora un po' di tempo, vediamo. Grazie presidente, bocca al lupo, buon viaggio, buona estate e buon Europa. Ci sentiamo a lavoro in corso. Grazie presidente. Grazie, Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Ora ci fermiamo per il traffico e poi torniamo, come detto, torneremo sul caso Donnarumma con le vostre voci. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Bello avere un tutti convocati dipendente che ci segue anche nel giorno di festa, cioè 4 luglio, perché si chiama Donald e scrive un WhatsApp da Chicago, the Windy City. Marco invece, provincia di Milano, buongiorno. Marco? Sono Giuseppe. No, ce n'è due, c'è Marco e c'è Giuseppe. Giuseppe da Milano, Marco da provincia di Milano. Chi vuole parlare per primo? Giuseppe. Eccomi. Eccolo, dica. Telegraficamente, se Icardi e l'anno scorso era un mercenario, Donnarumma quest'anno è una questione di cuore, perché ha voluto il fratello vicino. Ah, sì, ecco. Quindi, guardi, non l'ho sentita benissimo. Allora, se Icardi l'anno scorso era un mercenario... Sì. Donnarumma è una questione di cuore, perché ha voluto il fratello. Sì, ha avuto bisogno non della badante, ma del babysitter, facciamo così. Invece comunque, di 6 ne porta a casa 7. Comunque ho detto non è l'unico, non è l'unico ad avere bisogno della babysitter, perché in passato hanno avuto bisogno anche Giorca F, Condombia in tempi recenti, José Mauri, Kaká, Bobo Viera addirittura, sono portati i fratellini. Però certamente ha ragione Pallavicino quando ha detto che il vero 13-8 calcio, non so se esiste ancora, l'ha fatto il fratello di Donnarumma, che si becca un milione per 5 anni dal Milan e torna dai meandri del calcio greco. Domenico dalla provincia di Milano, buongiorno. La provincia di Milano fa tribolare. Eh? Ah, gente. Eccomi qua, sono qua. No, dica. Sono Marco io però, non Domenico. E allora non ci capisco più nulla, perdonatemi ragazzi. Marco dalla provincia di Milano, Domenico dalla provincia di Milano. Con pardon, ma così sta scritto. Dica no, Marco. Vabbè, figurati. Ormai ti ascolto da diversi anni. Benissimo. No, io faccio parte di una società di basket da Under 16, che ha vinto il titolo regionale FIP, l'Atli Trecella, no? Per quello volevo dire Trecella, non provincia di Milano. E, però niente, facevo intanto gli auguri a Petrucci e tutta la spedizione. Però volevo tornare, purtroppo io tifo la Fiorentina. E questa intervista a Carata, adesso non si è capito bene. Non è un'intervista, è un messaggio vocale che Borja Valero ha indirizzato ad un suo non meglio specificato amico, e che in tempo reale ha fatto il giro no, del mondo, quindi riesce a sentire ancora che amore c'è di certi da parte di certi giocatori per una società squadra. Cioè, io ho sentito sta cosa in questa intervista e mi chiedo come non si fa a mettersi la mano sul cuore dopo aver sentito questa intervista. Cioè, non è un'intervista, ripeto, è uno sfogo a cuore aperto. Mica un'intervista, perché lui dice: quando potrò parlare racconterò tutta la mia verità. È uno sfogo a cuore aperto. Se prende 5 milioni di euro dall'Inter e togliersi l'ingaggio di Borja Valero, cioè io non riesco più a capire. Meglio che resto nella mia società di pallacanestro. Forse meglio, va. Forse fa bene così, caro Marco dalla provincia di Milano. Andiamo a fare un salto al Tour de France, dove c'è Pieragusto Stagi, che ieri ha visto vincere un grande Peter Sagan. Ciao Pier. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Numerone di Sagan, eh. Numerone di Sagan con la maglia di campione del mondo. Allora, beh, non poteva mancare la firma del fuoriclasse, dai. Dopo la mano del Dios, abbiamo avuto la gamba del Dios, con una gamba sola ha vinto. Sì. Diciamo che all'inizio era partito, poi si è fermato, li ha guardati in faccia perché poi ha detto: vabbè, adesso voi state qua, io vado. Esatto, poi alla fine si è un po' scocciato e ha detto: vi ho tenuto compagnia, parto. Gli si stacca il pedale, lo rimette al posto giusto e vince per distacco, perché poi alla fine ha dato una bicicletta al secondo. Sì, ma no, lui è meraviglioso perché fa queste cose qui, cioè ci affascina, oltre ad affascinare le signorine, le miss. Anche il dopo corsa, no? È chiaro, perché quando gli chiedono: ma sembra tutto facile? No, non è facile, vincere è sempre difficilissimo. Con quella faccia, sembra uscito da una gelateria. Ascolta, oggi che succede? Oggi niente. Bello spot per seguire la tappa, non male. Oggi succede che ci sarà una volata, un bel volatone. Adesso c'è un ragazzo in fuga da solo che ha 7 minuti e 50 di vantaggio, Mankeris Book, che tra l'altro è il nipote di Benoni Beai, perché voi non vi dice niente, però è considerato nella storia del ciclismo il nipote del grande traditore. Chi è questo Benoni Beai? È uno che ha fregato Rick Van Looy. Van Looy probabilmente dirà molto di più, è stato uno dei più grandi corridori della storia del ciclismo. Bene, arrivano in due in volata. Van Looy chiede a Benoni di tirargli la volata, dice: sì, te la tiro io. Lui tira la volata e poi non si sposta più. Bene, da quel titolo mondiale poi Benoni ha avuto solo disgrazie, perché non ha più neanche avuto l'ingaggio in un circuito. Quindi ha fatto il furbo una volta, gli è costata carissimo. Detto questo, un uomo solo al comando, ma sarà volata, Carlo, oggi sarà volata, e penso che saranno tutti contro Marcel Kittel. Il bel Marcel cercherà di mettere il secondo sigillo in questo tour. Bisogna vedere se avrà l'estro, la voglia, la fantasia di fare qualcosa anche Peter Sagan. In realtà può fare qualcosa, come no, perché ultimamente ha anche confidato che le volate di gruppo un po' di, non dico paura perché lui non ha paura, però non ha proprio voglia di rischiare tantissimo, come d'altra parte domenica lo si è visto, l'ha visto che si era messa male e si è rialzato immediatamente. Oggi c'è la seconda opportunità per i velocisti, in questo tour ce ne sono tante perché in totale sono 9 tappe adattissime ai velocisti, forse fin troppe, e quindi vediamo un po' se chi sarà il più veloce. Noi italiani speriamo in un guizzo di Sonny Colbrelli, non abbiamo molto a livello di velocità. Senti, non abbiamo... resta il dato di fatto, il dato politico, come direbbe Pardo, che tornerà con l'inizio del campionato, ne approfitto per dirlo, il dato politico è la Sky ha comunque il tour in mano, no? Il tour in pugno. Assolutamente, Carlo, l'avevamo detto all'inizio di questo tour, il vero pericolo è dato da Chris Froome, ma soprattutto dalla sua squadra, perché è veramente fortissimo, troppo serve forte, come in Formula 1 l'abbiamo già detto, servirebbero strade bagnate per scombussolare un po' i piani. Sì, pioggia, tanta pioggia. Telefono a Bernie Ecclestone. Ciao, okay. Pier, ciao, sentiamo domani. Ciao Pier Augusto Stagi. Allora torniamo dopo il GR con il Napoli che si raduna, e De Laurentiis che parla come un fiume in piena, con un salto in casa di Juventus, con il nuovo disegnatore arbitrale che ha preso sul fischietto e è passato dietro la scrivania. A dopo. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Quest'estate il Falco e il Gabbiano non volano in vacanza. Rimaniamo con voi riproponendovi le puntate che voi ci avete chiesto di farvi riascoltare. Sfruttare i propri mali e quelli altrui per dare la scalata al successo. La conduttrice americana Oprah Winfrey. Il Falco e il Gabbiano vi aspetto oggi alle 15.30, naturalmente su Radio 24. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. E andiamo a Napoli da Don Raffaele Auriemma, che è sempre un piacere ascoltare e sentire. Ciao Raffaele. Carissimo. Come stai? Buongiorno. Buongiorno. Andiamo a Napoli, è un po' una contraddizione. Hai ragione, scusa, perdonami. Ci chiedo, stava bene un Yamma a Napoli. Giorgio De Luca, figurati, ma già mi fa un cazziatone così. Senti, ma questo incontro tra il Napoli e la gente di Bernardeschi, di Berardi, non di Bernardeschi, ne parliamo dopo perché va alla Juventus, di Berardi, sì, dici? Ho sentito sta cosa. Hai sentito sta cosa? Sì, ma io non vedo spazi vuoti lì davanti, mi sembrerebbe un po' strano se il Napoli prendesse Berardi, perché... oggi la squadra non ha delle priorità oltre quella del portiere, e quindi sì, quella del portiere è una, scusami Raffaele, quella del portiere è una favoletta, perché insomma è una tiritera tanto per tirare lì un mercato che secondo me il Napoli ha fatto, e chi mi dice che il Napoli non ha fatto mercato mi fa ridere, perché andate a guardare di quanto aumenta il monte salariale del Napoli, il monte ingaggi. Si arriva quasi a 100 milioni di euro adesso, si passa da 70 a 100. Quindi il Napoli il mercato l'ha fatto trattenendo tutti. E tu pensi che con Mazzarri, quando il Napoli raggiunse l'obiettivo dei gironi di Champions, aveva un monte ingaggi di 40 milioni di euro. Sì, qualcosa è cambiato, no? Qualcosa è cambiato. Questo è il mercato del Napoli. Poi Berardi, stiamo a vedere, insomma, se lo cercano. Perché può forse essere. Non tutti hanno capito che il Napoli ha dovuto ricomprare Insigne, ha dovuto ricomprare Mertens, ricomprerà Goulam. Perché sì, prendere questi calciatori oggi, se tu non li avessi, il Napoli non se li potrebbe più permettere. Certo. Intanto De Laurentiis ha parlato ieri al Mattino di Napoli. Come, sentiamo insieme qualche audio, poi lo commentiamo. Uh-huh. Ha parlato di scudetto, ma non è la prima volta. Prima o poi dobbiamo vincere lo scudetto. È meglio che sia prima che poi, no? Quindi dobbiamo fare tutti quanti lo sforzo, i tifosi, il presidente, la squadra, l'allenatore, i media che ci supportano e ci sopportano a farci vincere questo benedetto scudetto. E quindi dichiariamo occhi aperti verso chi non ce lo vorrebbe far vincere. E c'è qualcuno. Vigilate. Vigilate, gente, vigilate, però De Laurentiis parla anche di una corsa a 5. 5 mi sembrano tante. Io ho piacere che 5 squadre come Roma, Napoli, Inter, Milan e Juventus si giocheranno il prossimo scudetto in maniera estremamente sportiva. È ovvio che vincerà il migliore, come sempre, però è anche ovvio che quest'anno il Napoli potrebbe essere il migliore. Raffaele, tu ci credi che dalle 7 sorelle siamo passate alle 5? Secondo me presto per dirlo, anche perché la Roma mi sembra che stia più che altro vendendo. Sì, neanche sulla carta io vedo queste 5 squadre in lotta per lo scudetto. Io ne vedo solo 3. Al momento solo 3. La Juventus, il Napoli e l'Inter. Poi se il Milan riuscirà ad amalgamare questo bel gruppo di calciatori che ha comprato, che conti dovrebbero arrivare a 7, allora si vedrà, però... Se parliamo statisticamente e come logica, le formazioni più pronte sono queste 3. Poi certo. Lo può vincere anche l'Atalanta, per la sorpresa che non manca mai. Non esageriamo, Raffaele. Uso un paradosso in teoria dire partono calcio... tutte da zero, e quindi certamente lo può vincere anche l'Atalanta. Però intanto sulla griglia di partenza c'è stato il sorpasso Napoli-Roma, su questo mi pare indiscutibile, no? Sì, ma credo che la Roma sia stata superata anche dall'Inter ormai, perché io non so che mercato farà adesso Monchi, so quelli che sono andati via oltre a Spalletti e a Totti, che rappresentavano un po' i simboli e i capisaldi su cui si reggeva la stagione giallorossa. Al momento, se noi parliamo in questo istante, giorno 4 luglio, in prima fila ci sono il Napoli e la Juventus, un po' più dietro c'è l'Inter. Cioè, il Milan, sì, l'Inter che non si capisce ancora bene quale faccia ha e avrà. Conosciamo però c'è il rischio che avrà una brutta faccia. Una faccia che mette paura. Senti, amore, odio e amore, quello che lega il presidente al suo allenatore. Cosa dice su Sarri? Sarri deve capire che ognuno deve fare il proprio mestiere. Allora, se io investo su un ragazzo un certo numero di milioni, io anche in malafede ti devo rompere i coglioni per dirti oh, ma che non lo fai giocare? Perché io devo essere il provocatore, tu devi essere quello più accorto che invece deve dire no, non te lo faccio giocare perché non è pronto. Ma io non è che sto con te tutti i minuti sul terreno di allenamento per capire quanto lui sia pronto o quanto lui non sia pronto. Questa mi sembra di averla già sentita, ma anche questa mi sembra di averla già sentita. Sarri lo amo, lo rispetto, e per me è il numero uno dei allenatori che abbiamo oggi in Europa. Però... poi il mio dovere, se ho investito, l'altro anno io ho investito, non so se voi ve lo ricordate, se andiamo a fare i conti, 170 milioni di euro, cioè ho venduto per 90 il signor Higuain e ho investito 170, allora dico ma signori, quando è che me li fate giocare questi giocatori? Voglio pure vedere io che cosa ho comprato. Che cosa mi è stato fatto comprare? Perché altrimenti rimandiamoli via. Che ce li teniamo a fare? anche questa l'abbiamo già sentita. Sarri numero uno d'Europa, vabbè, forse ha esagerato un pochino, ma comunque bisognerà trovare un'altra tiritera per l'anno prossimo, Raffaele. Parli dei rapporti tra De Laurentiis e Sarri? No, ma sto parlando del li compro, fammeli giocare, se non me li fai giocare non li vediamo, non li valorizziamo e siamo sempre... Ma è giusto che il presidente dica questo, è altrettanto giusto che Sarri faccia come sia più corretto, perché l'incipit del presidente chiarisce tutto. Ognuno deve fare il proprio mestiere. Oh, certo. Sarri fa il suo, sì. E fino a prova contraria l'ha fatto piuttosto bene, leggendo i tanti record che il Napoli ha ottenuto. Chiaro. Allora, se questo è un lavoro iniziato adesso, non gli rompiamo le scatole di giocare più o meno un altro. Nelle grandi squadre ci sono anche grandi calciatori che magari a fine stagione collezionano 400 minuti complessivi. Sì. Ma ti deve servire nel momento in cui ci sia una necessità, altrimenti stai in panchina. Sì, costa tanto, è stato pagato tanto, ma non è che lo svaluti. Resta un grande giocatore. Ora, se poi uno deve giocare solo perché è costato tanto, io trovo che non sia corretto sotto l'aspetto tecnico. No, ma questo no, però certamente Sarri non è un amante del turnover, quindi ci sono giocatori che magari entrano e poi non escono più, ce ne sono altri che escono e poi non rientrano più, al contrario. Senti, l'ultima cosa, tra me e te, Raffaele, come si potrebbe fare a rinforzare questo Napoli? Al di là di Berardi, di questo fantomatico colloquio con la gente... Per rinforzare questo Napoli devi solo indebolire le altre. La Roma lo sta facendo da sé, aspettiamo che la Juventus, faccia altrettanto, e vedo che è sulla strada giusta. Ma no, perché è andato via Dani Alves, si parla delle cessioni di Alexandro e di Bolucci, un anno in più tra ti sta ascoltando, ecco. Max Nerozzi, attenzione. Ecco come attenzione. Si rinforza il Napoli, così si rinforza il Napoli. Grazie Raffaele. Grazie a te. È sempre un piacere. È sempre un piacere. Hai sentito Max Nerozzi della Stampa cosa ha detto Raffaele Auriemma? Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Ma potrei citarti Monchi forse a sproposito, non è un supermercato la Juve. Non è un supermercato la Juve, è chiaro che l'addio di Dani Alves improvviso ha scombussolato i piani. Ora dovrebbe arrivare Danilo da Real Madrid, ma per rinforzare il Napoli bisogna che si indebolisca la Juventus. E che fai, dicevo io, gli spari? No, la Juventus mi sembra stia facendo un mercato abbastanza chiaro. Oggi incontro Corvino Bozzo per Bernardeschi, verrà ribadita la volontà del giocatore di non rinnovare il contratto, la sensazione che finirà alla Juventus. Manca ancora il centrocampista che cronicamente mancava l'anno scorso, cioè backup di quelli che giocavano stabilmente, e si parla di Matuidi. E poi la Juve fa solo dei ritocchi, ma non fa rivoluzioni. E forse diciamo che il suo grande privilegio rispetto a tutte le altre, ci metto anche il Napoli perché non ha vinto lo scudetto, la Juve sì, è che è l'unica che può permettersi di non avere ansia, sì, aspetta di fare le cose. Ma infatti sai qual è la mia sensazione? Che la Juventus stia lavorando per il futuro, cioè stia lavorando per i backup di quelli che fatalmente, per ragioni anagrafiche, tra un po' insomma verranno rimpiazzati. Mi sembra che sia improntato a questo il mercato della Juventus. Guarda, è così perché Mandzukic poco dopo la finale ha avuto un colloquio con Allegri e ha detto di essere disponibile di giocare ancora in quella posizione lì, che tu sai che è molto, molto, sì, dispendiosa, sì. Ma al 99% arriva Bernardeschi, che è un giocatore che può giocare lì e ha 7 anni meno di Mandzukic, e è arrivato arriverà Schick, sì, a 21 anni, ed è un giocatore che, anche tu lo ricordai qualche volta, alla Juve è mancato, nel senso che è mancato il Zaza o Morata degli anni scorsi, non aveva un cambio del numero 9 la Juve quest'anno, dopo aver cambiato modulo. Certo. E poi il centrocampista che arriverà difficilmente, secondo me, potrà essere un crack, nel senso che dire piani sono i due titolari, d'altronde arrivi in finale però, di Champions. Però ti serve un backup. Assolutamente. No, se è avvertita la mancanza del backup di questi. Sì, no, ma poi se è servito partita, al di là che Marchisio stava recuperando un infortunio, la tipologia di un giocatore che tu non avevi più, insomma, diciamo che tu avevi Pogba, ma non è che dovevi comprare Pogba, se no ci vogliono 105 milioni di euro, però Pogba è un giocatore che strutturalmente, fisicamente ti dava dominio sui pallonieri, metà campo, sui limiti del portiere, cosa che Allegri guarda molto. Allegri guarda due statistiche: i falli e i duelli aerei vinti, e i duelli aerei vinti la Juve ha subito. Ti mancava un centrocampista di impatto fisico, ovviamente non hai Pogba, ma poteva essere Matic, poteva essere Matuidi, poteva essere Zonzi, chi ti pare, però effettivamente può essere Matuidi? Secondo me alla fine sì, anche se con un anno di ritardo, un giocatore che piace più Zonzi, però fino adesso le cifre che vuole, mi sembra tanta roba. No, per un giocatore che valesse 29 anni mi sembra una follia. Però ecco, se mi chiedi se la Juve avrà un titolare nuovo, può anche essere di no, nel senso poteva essere forse Douglas Costa, però se arriva Danilo si copre il posto da extracomunitario. No, esatto, non se ne parla neanche. Poi attenzione anche al sentito che parlavi di Montengaggi per su Napoli. Adesso alla Juve, insomma, come stime, si chiuderà il bilancio della provata a settembre, però occhio e croce, andiamo verso i 200 milioni di euro. Per carità, anche il fatturato è aumentato moltissimo, ha triplicato i 7 anni Agnelli, però sai, Montengaggi da tenere sotto controllo, e Douglas Costa, uno che chiede tra i 6 e i 7 milioni di euro, ne hai già dati quasi uguale a Dybala, idem, sì, Higuain, ci sono anche degli equilibri non solo economici. No, ma questo è chiaro, questo è chiaro. Toglimi un'ultima curiosità, ma De Sciglio, la Juventus lo prende o no? Perché sembrava un affare già fatto. Non dimentichiamo che la Juventus sta lavorando per il futuro anche con giocatori già presi e lasciati in parcheggio, tipo Caldara, eccetera eccetera. Ma De Sciglio lo prende o no la Juve? Secondo me alla fine sì, anche alla fine. Sì, cioè, perché sarà una guerra di trincea. L'ha fatto capire un po' Branchini dopo uscire da casa Milan, dicendo adesso sostanzialmente tocca alla Juventus. De Sciglio si è esposto, ha fatto quel che poteva fare, dicendo che non vuole rinnovare con il Milan. Difficilmente, secondo me, il Milan non tiene la scadenza. È chiaro che però la Juve ha offerto poco e il Milan ha detto no, grazie. E però è un giocatore che piace molto. Se ti ricordi, con Allegri gioca molto bene. Esatto, ma posso dirti, piace molto anche a me De Sciglio. Io sono convinto che alla Juventus farebbe benissimo. Cioè, lui adesso ha la scimmia sulla spalla al Milan. Ti dico, sei in buona compagnia, perché piace molto a Allegri e piaceva molto a Conte e i tipi della nazionale, quindi esatto. Due che forse di calcio si capiscono abbastanza. Ha un unico difetto, se posso permettermi, ma a 24 anni sembra che giochi, cioè, anzi, ha fatto 6 stagioni di Milan, quindi ha grande esperienza, ma è ancora giovane. Alcune volte ha subito la concorrenza interna, la pressione di altri. Se riesce a fare questo salto, e se giochi nella Juve lo devi fare per forza, perché la concorrenza è sempre, ha il fisico e i mezzi tecnici per giocare ovunque. Io mi ricordo nel 2013 un 2-2 con Brasile a Ginevra, Citi Prandelli, lui giocò benissimo contro Dani Alves, tra l'altro. Per me può diventare anche un grande giocatore. Sono d'accordo con te che poi l'ambiente fa tanto. Io ho visto giocatori che altrove rendevano 5, sono andati a Juve e rendevano 8. Chiaro. Grazie Max, a presto. A buon lavoro. Ciao. Max Nerozzi dalla Stampa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a Tiziano Pieri. Buon pomeriggio. Perché ciao Carlo. Il mercato non riguarda soltanto i giocatori, ma anche le poltrone, come quella di designatore arbitrale. Rizzoli, che poteva arbitrare una stagione ancora, ha deciso di deporre, non le armi ma il fischietto, e di sostituire Messina sulla poltrona di disegnatore arbitrale. Perché? Perché è giusto così. Perché è giusto così. È stato l'arbitro più affidabile, è stato l'arbitro che piaceva a tutti e sarà un grande disegnatore. Ne sono convinto per il suo carisma, per il suo saper fare, insegnerà ai giovani e farà crescere ai giovani quello che ahimè non è stato capace Messina. Sì. Ha fatto buone annate, ma diciamo che i campionati non sono stati combattuti alla morte. Diciamo che la Juventus in questi anni di sua gestione ha sempre stravinto, quindi per gli arbitri è stato anche il campionato più facile, dobbiamo sottolinearlo. Però non si è creato qualcosa su. Io spero che con questo nuovo ciclo, mi raccontano, la leggenda narra che ci sia stato un Micchi in versione Raiola, no? Per convincere Rizzoli a deporre il fischietto, come hai detto tu. Ma io sono convinto che ha fatto la scelta migliore, anche perché quest'anno, forse dopo gli europei, non è stato una grandissima annata da parte sua, quindi gli stimoli poi vengono a cadere, e non è giusto, per rispetto alla grande carriera che ha fatto, fare un'annata magari a mezzo servizio. Ecco, se, ascolta, te l'aspettavi questo avvicendamento? Ma non me l'aspettavo, però dagli organici degli arbitri, dei quadri arbitrali, si intuiva che con l'aumento di un'unità potesse nelle ultime ore cambiare qualcosa. Sembrava scontata la nomina di Messina, di nuovo ultimo anno, aveva ancora a disposizione un anno, sottolineiamolo, e invece insomma questa unità in più salita dalla Serie B con Abisso, perché Manganiello e Pasqua ormai erano andati per scontati dalla B alla A, promossi gli arbitri, c'era questa aggiunta di Abisso, un ottimo arbitro, però è stata un po' la sorpresa, e faceva capire che insomma i quadri potessero anche tornare a 40 arbitri. Senti, poi Tiziano, l'altra novità di Morganti, sottolineiamo, sì, Serie B va a sostituire purtroppo per Stefano Farina, non c'è più. Sì, sì. Tiziano, senti, toglimi una paura. La VAR. Una paura? Sì, io ho paura. Io ho un po' paura, perché mi sembra che sì, non so, un mese, poco più dall'avvio del campionato, ci sia una confusione pazzesca intorno a questo nuovo strumento che Messina aveva promesso, però mi sembra che ci sia ancora piuttosto fragile la regolamentazione, l'impiego, l'utilizzo, i contorni di questo strumento che tutti attendono e tutti vogliono. Il peccato originale è alla base, cioè la fretta. È per questo che io ho paura. È per questo che io ho paura. Ma io ho paura, no, perché è uno strumento in più e gli arbitri non devono avere paura. Aspetta. È uno strumento in più, va bene, però è uno strumento in più che può essere estremamente pericoloso se non si ha certezza del diritto attraverso il quale questo strumento viene impiegato. Bravissimo, è proprio questo. I punti cardine della VAR devono essere: gli arbitri non devono aver paura di decidere, quindi demandare al mezzo televisivo le decisioni, ma decidere in campo con fermezza e decisione, poi utilizzare questo mezzo come estremo salvataggio nel caso in cui ci sia un componente della squadra. Poi due giudici prima erano di porta, ora sono stati spostati davanti a un monitor. Mi sembravano abbastanza pleonastici. Con l'avvento della mi sembrava abbastanza inutile anche prima, comunque, i giudici di porta. Diciamo che è una cosa che a me non ha mai commesso. Penso come se si è dimostrato che è stato un fallimento per quanto riguarda il gol non gol, però sono stati utilissimi in alcuni casi per alcuni arbitri che non avevano paura. Secondo me, guarda, per me è stata utilissima sono stati utilissimi i sensori sulla linea di porta, che ci hanno tolto i dubbi quello fondamentale, e quello l'ho sempre sponsorizzato Tiziano, è un uomo che decide e valuta, è chiaro. Senti, ti lascio con la notizia ufficiale che Rizzoli è il nuovo disegnatore, sei contento? Ufficiale, ufficiale. Come Morganti alla B, io sono contentissimo. Questi ragazzi dal campo sapranno trasmettere nuove motivazioni a questi giovani che ho visto poco carichi. Sì, ti lascio con questo messaggio. Lascio te, i nostri ascoltatori, con questo messaggio. Rizzoli, l'arbitro amato dalle squadre di potere, eh? Giorgio De Luca, nostro autore. Era amato da tutti. È un ruolo difficile, ma saprà farlo nel migliore dei modi, sono convinto. Tanto ne parleremo un sacco. Grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domani, tutti convocati. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.